l'eco del silenzio. Silenzio. Un'idea di Lucia Cappellucci. Buongiorno a tutti e benvenuti. Io sono Lucia Cappellucci e questo è l'eco del silenzio. Le prime due notizie di questa settimana vengono da www.eilmensile.it, il nuovo sito del mensile di Emergency, nonché il nuovo luogo di informazione, dato che peacereporter.net, come avevo già detto la settimana precedente, ha ufficialmente cessato di esistere. Siria, UNICEF. Allarme massacro bambini, 384 dall'inizio della rivolta, del 27 gennaio 2012. L'UNICEF lanciò un nuovo allarme sui bambini morti in Siria dall'inizio della rivolta contro il regime del presidente Bashar al-Assad, il cui numero è salito a 384. Lo fa il suo vice direttore Rima Salah nel corso di una conferenza stampa a Ginevra. Al 7 gennaio, 384 bambini sono stati uccisi, la maggior parte dei quali maschi. Circa 380 sono stati arrestati, alcuni di loro hanno meno di 14 anni, ha dichiarato Salah esprimendo la sua preoccupazione a nome dell'organismo ONU e ha rimarcato l'obbligo di proteggere i bambini e salvaguardare i loro diritti. Il 2 dicembre, l'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani, Navi Pillay, aveva dichiarato che erano 307 bambini uccisi nel paese dall'inizio delle manifestazioni. La prossima notizia può sembrare estremamente piccola, forse nemmeno così importante, ma secondo me ha un significato enorme, perché sottolinea come siano le parole che non solo descrivono il mondo, ma danno anche dignità e rispetto a quella che è stata la storia di un paese, e dignità e rispetto a quelle che sono state le vittime della storia di un determinato paese. Cile. L'epoca di Pinochet torna ad essere chiamata dittatura, del 27 gennaio 2012. Il Consiglio Nazionale per l'Educazione cileno ha deciso ieri che il periodo in cui Pinochet ha governato sul paese tornerà ad essere definito nei libri di testo come dittatura. Una retromarcia dopo che a dicembre scorso lo stesso Consiglio decise di sostituire il termine dittatura con regime militare. La decisione presa dal governo di Sebastián Piñera lo scorso dicembre aveva scatenato un acceso dibattito nel paese, nel quale si accusava il tentativo di nascondere la verità dei fatti. Pinochet impose la sua dittatura sul Cile tra il 1973 e il 1990, dopo il colpo di Stato dell'11 settembre 1973 che destituì il governo democraticamente eletto di Salvador Allende. Per concludere, sempre dalle notizie di www.eilmensile.it, la Valsusa non si arresta. Torino, cronaca della manifestazione del 28 gennaio 2012 di Maurizio Pagliasotti. La Valsusa cala Torino in una giornata d'inverno, la prima di quest'inverno, ma anche la città è uscita un po' ma non troppo di casa ed è andata a manifestare. Sotto una gelida nevicata, circa 5.000 manifestanti, 10.000 secondo gli organizzatori, hanno marciato nelle vie centrali di Torino per esprimere indignazione contro la recente ondata repressiva che ha colpito il movimento. 26 ordini di custodia per provvedimenti accaduti 6 mesi fa, alcuni eseguiti ai danni di uomini simbolo della parte più popolare e non violenta del movimento. Alle 2 del pomeriggio, il corteo partiva dalla stazione Porta Nuova e dopo aver attraversato via Roma giungeva in piazza San Carlo. Qui si fermava sotto la sede di Intesa San Paolo, una delle banche maggiormente coinvolte nella vicenda Alta Velocità, nonché la padrona della città per mezzo del suo debito. I manifestanti si sono avvicinati al portone d'ingresso ma sono stati respinti, senza alcun uso di violenza da parte delle forze dell'ordine. Nonostante le numerose maschere nere sui volti, si capiva in quel momento che la manifestazione sarebbe stata determinata e pacifica. Dopo il potere finanziario era il momento di quello politico, e quindi sotto le finestre della regione Piemonte venivano scaricate alcune cassette di macerie e lacrimogeni provenienti dal cantiere di Chiomonte. Il corteo terminava in piazza Vittorio dopo aver attraversato la centralissima via Po, nella piazza più grande di Torino. Prendevano la parola i rappresentanti dei gruppi colpiti oggi dai provvedimenti giudiziari, Rifondazione Comunista, il Comitato di Lotta Popolare di Bussoleno e il FAI. Molte voci per un unico messaggio. Non si fa un passo indietro nonostante la repressione. Di fatto, la manifestazione ha dimostrato la capacità di mobilitazione immediata per circa 5.000 manifestanti in condizioni climatiche estreme, numeri che Torino non vede nemmeno durante gli scioperi generali. Al termine degli interventi, il blocco più giovanile mal accettava la conclusione pacata della manifestazione e si organizzava per un controcorteo che ricalcasse la via del ritorno. Il movimento, però, si sfilava. un piccolo confronto con forze dell'ordine che indietreggiavano era quindi il massimo momento di tensione di una giornata simile ad altre che costellano la storia ventennale della lotta contro l'alta velocità. Il prossimo appuntamento, decisamente più solido, è in programma per il 26 febbraio. Nel periodo che intercorre con questa data dovrebbero iniziare le famose procedure di esproprio dei terreni appartenenti ai NOTAV. Si tratta di circa 1000 lotti per i quali si preannuncia una dura battaglia legale. L'eco del silenzio. Da www.repubblica.it del 26 gennaio 2012. L'associazione Libera contro le mafie tra le 100 migliori ONG del mondo. La migliore del 2012 è Wikimedia Foundation, la cui iniziativa più celebre è Wikipedia. Al secondo posto c'è Partners in Health, al terzo Oxfam, che replica, essendo invece considerata la prima del mondo secondo altre classifiche, sottolineando come l'organizzazione piazzata al secondo posto, pur assai rispettabile, di fatto operi unicamente ad Haiti. Di Emanuela Stella. Roma. L'associazione Libera, che dal 1995 si batte contro tutte le mafie, è stata inserita dalla rivista The Global Journal nella classifica delle 100 migliori ONG del mondo. È l'unica organizzazione italiana di community empowerment che figura in questa lista, la prima, dedicata all'universo del no profit. Migliore ONG del 2012 è Wikimedia Foundation, la cui iniziativa più celebre, Wikipedia, perfetta esemplificazione delle potenzialità di una grande idea ben realizzata, ha trasformato il modo in cui il mondo si procura le informazioni, con i suoi 477 milioni di visitatori al mese, sottolinea The Global Journal. Jay Walsh, responsabile della comunicazione di Wikipedia, ha espresso soddisfazione per il riconoscimento, che va esteso, alla comunità dei nostri 100.000 collaboratori in tutto il mondo. Al secondo e terzo posto c'è Partners in Health per il suo approccio olistico alle malattie infettive in 25 anni di attività e per i 2.800.000 haitiani visitati nel 2011, al terzo Oxfam, che è in grado di trovare soluzioni durature contro la povertà e l'ingiustizia ed è presente in 98 paesi del mondo, per combinazione Hollywood e tempo di Oscar, ma anche noi abbiamo il nostro momento di notorietà sotto i riflettori, si legge sul sito web di Oxfam, dato che il numero 1 è la fondazione Wikimedia e il 2 Partners of for Health, una ONG piccola ma assai rispettabile che opera unicamente ad Haiti. Essere il numero 3 costituisce un importante riconoscimento della leadership globale di Oxfam, l'impegno contro la corruzione. Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, è nata il 25 marzo 1995 con l'intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente è un coordinamento di 1600 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base impegnate sul territorio per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità. La legge sull'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, l'educazione alla legalità democratica, l'impegno contro la corruzione, i campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura sono alcuni dei suoi impegni concreti. È un riconoscimento che premia un coordinamento di associazioni, sottolinea Gabriella Stramaccioni, coordinatore nazionale di Libera. Lo spirito è quello di mettere insieme associazioni, gruppi, singoli cittadini per il contrasto delle mafie, affinché ciascuno sia chiamato a fare la propria parte. In Europa siamo presenti in 30 paesi, con una cinquantina di organizzazioni giovanili. Un'analoga rete sta nascendo in America Latina, con la denominazione di ALAS per il contrasto al narcotraffico. Il Caffè de Paris, sottratto alla mafia. Tra i successi messi a segno dalla Libera figura la battaglia per l'assegnazione del Caffè de Paris. Lo storico locale in via Veneto, sequestrato all'Andrangheta, ha una cooperativa di lavoratori. Tra le prime 10 migliori ONG a livello internazionale, la classifica di The Global Journal vede al quarto posto BRAC, un'organizzazione per il microcredito nata in Bangladesh 40 anni fa, che conta oggi 110 milioni di beneficiari. Seguono International Rescue Committee, tra le organizzazioni di assistenza umanitaria più affidabili, trasparenti e rapide nell'intervento del mondo, PATH, Program for Appropriate Technology in Health, nata negli anni 70 come agenzia di pianificazione familiare che univa pubblico e privato per mettere a disposizione contraccettivi nei paesi più poveri del mondo e che dal dopoguerra lavora con le donne per combattere la povertà ed è presente in 87 paesi del mondo. Medici Senza Frontiere, che proprio quest'anno celebra il suo 40° anno di attività, Danish Refugee Council, che assiste i rifugiati fino a quando non si è assicurata loro una residenza stabile, e Ushahidi, testimone in lingua swahili. L'organizzazione, con sede a Nairobi, che in soli 3 anni di attività ha creato una rete informatica che dà conto dell'evoluzione dei progetti di pace in Africa. L'eco del silenzio. Per finire, ancora 2 notizie da Libera. Da www.libera.it. Estate 2012, campi di volontariato sui terreni confiscati alle mafie. Tanti giovani scelgono di fare un'esperienza di volontariato e di formazione civile sui territori confiscati alle mafie, gestiti dalle cooperative sociali di Libera Terra. Segno questo di una volontà diffusa di essere protagonisti e di voler tradurre questo impegno in un'azione concreta di responsabilità e condivisione. L'obiettivo principale dei campi di volontariato sui beni confiscati alle mafie è quello di diffondere una cultura fondata sulla legalità e giustizia sociale, che possa efficacemente contrapporsi alla cultura della violenza, del privilegio e del ricatto. Si dimostra così che è possibile ricostruire una realtà sociale ed economica fondata sulla pratica della cittadinanza attiva e della solidarietà. Caratteristica fondamentale di E State Liberi è l'approfondimento e lo studio del fenomeno mafioso tramite il confronto con i familiari delle vittime di mafia, con le istituzioni, con gli operatori delle cooperative sociali. L'esperienza dei campi di lavoro ha 3 momenti di attività diversificate: il lavoro agricolo o l'attività di risistemazione del bene, la formazione e l'incontro con il territorio per uno scambio interculturale. E State Liberi è la rappresentazione più efficace della memoria che diventa impegno. È il segno tangibile del cambiamento necessario che si deve contrapporre alla mafiosità materiale e culturale dilagante nei nostri territori. Per maggiori informazioni sui campi di volontariato di Libera potete scrivere all'indirizzo internet estateliberi@libera.it oppure chiamare al numero di telefono 0669770335. Comunque sia, sul sito di Libera, che ripeto è www.libera.it, trovate tutte le informazioni sui campi, nonché i programmi per i gruppi organizzati, dei campi per singoli e dei campi per singoli under 18. Per concludere, da www.liberainformazione.org del 25/1/2012 è online il supplemento di informazione Verità e Giustizia. All'interno un approfondimento sul 13° rapporto di SOS Impresa, le mani della criminalità sulle imprese. Non è possibile che di fronte ai dati di 100 miliardi di euro di fatturato delle mafie in Italia, il 7% del PIL, di fronte a 160.000 imprenditori colpiti dal racket e ai 200.000 dall'usura, si debba reclamare solo la maggior presenza dello Stato e delle istituzioni. Queste ci vogliono, laddove è spesso assente. Ma ora tocca a tutti alzare la voce della denuncia e del no, gridati di fronte a chi chiede estorsioni ai tangenti, a chi corrompe e distorce il mercato. Con questo appello, il direttore di Libera Informazione, Santo della Volpe, apre il supplemento di informazione Verità e Giustizia, che rielabora i dati di questa presenza economica e criminale al nord, contenuti nel 13° rapporto di SOS Impresa, Le mani della criminalità sulle imprese. Libera Informazione, anche in vista della giornata della memoria e dell'impegno, che si terrà a Genova il prossimo 17 marzo, lo fa attraverso l'analisi del magistrato della Direzione Nazionale Antimafia, Anna Canepa, contenuto nel dossier Mafia in Emilia-Romagna, e di Giovanni Tiziano, cronista impegnato da anni in inchieste sugli affari delle mafie nella regione. E poi si sposta nel profondo nord, dalla Liguria, ascoltando la voce della società civile, al Piemonte, grazie all'approfondimento firmato dal giornalista Simone Bauducco, animatore dei giovani di ACMOS, proseguendo ancora con la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Veneto, la Valle d'Aosta e il Friuli Venezia Giulia. In chiusura, torna a raccontare attraverso le consuete rubriche di narcotraffico in Messico, dei primi collaboratori di giustizia dell''Ndrangheta, anche al nord, e dell'impegno di una vita per la verità, quello di Mario Francese, cronista del Giornale di Sicilia, ucciso il 26 gennaio 1979 a Palermo. Sempre sul sito www.liberainformazione.org è possibile scaricare la newsletter, tramite la quale potete accedere a tutti i vari argomenti di cui questo articolo dà comunque sia un riassunto. Anche per questa settimana è tutto, da Lucia Capparrucci un saluto e l'augurio di frenetiche letture. I contenuti di questa puntata sono disponibili all'indirizzo ecodelsilenzio.blogspot.com. L'eco del silenzio. Un'idea di Lucia Capparrucci.